E allora siamo, come avevamo annunciato, in collegamento telefonico con Atanasio, che si trova a Salonicco e che sta lavorando ormai da un anno, dopo la chiusura da parte del governo greco di ERT, la televisione pubblica, in una radio, una televisione che indipendenti, libere possiamo dire, che comunque continua le sue trasmissioni da allora. Pronto? Buongiorno. Buongiorno a te. Allora, intanto sappiamo appunto che l'11 giugno è stato un anno dalla chiusura di ERT, ma ci sono state comunque iniziative nel vostro paese riguardo a questa questione. Ce ne vuoi parlare un po'? Senz'altro, innanzitutto vorrei ringraziarti, ringraziare i tuoi compagni, anche i vostri ascoltatori del sostegno tutto questo anno, perché a dire la verità, più delle mura della radio televisione pubblica un segnale, un appoggio, una parola dolce è molto, no? Ve lo dico dalla profondità del cuore. Allora, nessuno l'avrebbe aspettato un anno dopo che saremmo stati qui a parlare della ERT ancora aperta, a parlare di questa lotta contro il governo neoliberalista in Grecia, che un anno fa ha fatto questo atto di fascismo di decidere chiudere l'ERT. In tutta la Grecia l'11 di giugno abbiamo avuto delle grandissime manifestazioni, dove c'è una sede di ERT, da Traca fino a Peloponneso, da Epiro fino a Dodecanisa e a Rodi, dove certo ci sono state delle manifestazioni non di lacrime, non di lutto, ma manifestazioni di orgoglio, di gioia, di allegria, visto che ha dimostrato a tutti che gli impiegati possono far funzionare un ente, soprattutto un ente pubblico, che è molto importante. Senti, la vostra emittente adesso su che piattaforme funziona e com'è un po', a un anno di distanza, un bilancio, se ce lo puoi fare, della vostra attività? Per quanto riguarda la televisione, siccome da novembre abbiamo perso la sede centrale, quella di Atene, dopo l'invasione della polizia, il nucleo della nostra lotta si è trasferita qui a Salonicco, dove la sede della televisione si trova ancora nelle nostre mani. Il nostro programma si produce soprattutto via internet, tramite ertopen.com o thepressproject.telia.gr, ma anche ai luoghi della Grecia, alle città che continua a esistere ancora il segnale analogico, quello vecchio, con cui si trasmetteva la televisione. Per quanto riguarda la radio, dalle 18 ERT che si trovavano in tutta la Grecia, i 15 ancora si funzionano ancora grazie a questa fortissima lotta degli impiegati, che siamo licenziati dall'11 di giugno l'anno scorso, distrutti direi dal punto di vista economico, stanchi fisicamente ma anche nell'anima. Siamo ancora qui. Che tipo di trasmissioni state continuando a fare? Non è facile continuare a fare le trasmissioni che si facevano un anno fa, perché non dobbiamo dimenticare che più o meno il 40% dei nostri ex colleghi o hanno firmato contratti con la nuova radiotelevisione pubblica o sono andati a casa. Allora ci mancano, a dir la verità, dei settori fondamentali, tecnici, eccetera, eccetera. Però le notizie sono in onda ogni giorno, puntuali, per quanto riguarda la radio ogni ora. Per quanto riguarda la TV ci sono le notizie di notte verso le 9, 9:30. Cerchiamo a fare quello che è possibile. Poi ci sono dei documentari che riguardano un sacco di tematologia, di natura, dei movimenti in tutto il mondo di sinistra e non solo di sinistra, reportage fatti anche da studenti della facoltà del giornalismo qui a Salonicco, dell'Università di Salonicco. Cerchiamo di far vedere tutto quello che ci fa ancora ricordare l'ERT, qualità, alta qualità, è gratis. Il nostro motto è gratis, continuare ad essere sempre al servizio del popolo, sempre al servizio del pubblico. Senti, come vi sostenete? Questo è un capitolo. C'è sì. La mamma, guarda, ve lo dico esattamente come. C'è la mamma, c'è il papà, c'è lo zio. Ok? Per esempio, io fra poco vado a mangiare alla mamma perché, vabbè, è difficile. Ma per quello che immagino possa essere difficile la situazione che vive adesso la Grecia, e non solo la Grecia, c'è comunque un sostegno da parte di chi vi ascolta? Senz'altro, puoi immaginare che, a parte tutto quello che sta vivendo un popolo intero, noi, probabilmente anche altri paesi, soprattutto del Mar Mediterraneo, Italia, Portogallo, eccetera, eccetera, può aggiungere di essere disoccupato, già è un gran problema. È difficile, ognuno di noi cerca di trovare un modo per sopravvivere, lo dico con sincerità, non è un eroismo. Non dobbiamo dimenticare che dopo un anno si perde anche, non so come si dice in italiano, un disoccupato per un anno prende qualcosa dallo Stato, ormai questo è tagliato perché l'anno è passato, un bonus, diciamo così, dallo Stato, più o meno 500 euro, questo è ormai tagliato. Allora cerchiamo di fare quello che è possibile, l'importante è che ci aiuta la gente, ma non per le nostre tasche, ci aiutano per le nostre manifestazioni. Senti, adesso un anno, diciamo, ripercorriamo un po' quello che ha portato alla chiusura di ERT, no? Cioè il governo greco ha fatto una propaganda che era cominciata già molto prima e che conosciamo bene anche qui in Italia, contro i presunti carrozzoni, cioè dei dipendenti pubblici, in cui ovviamente ha inserito anche la televisione pubblica greca, ma in realtà e dicendo che appunto i tagli erano dovuti alla volontà della Troica, in realtà si è trattato di un'operazione politica sull'informazione. Senz'altro. Questo l'abbiamo sentito per esempio durante le elezioni per il Parlamento europeo, dove siccome mancava la ERT come la conoscevamo un anno fa, tutto il settore privato ha votato, tutti i mass media privati hanno votato per il nostro governo, cioè volevano eliminare la ERT dalla televisione, dalla radio, per poter promuovere le loro politiche senza difficoltà. Questo è il numero uno. Il numero due è che volevano vendere la rete non analogico, digitale, a certe ditte. Che è successo? Dopo la chiusura dell'ERT hanno venduto la rete digitale ad Igea per 15 anni solo per 17 milioni euro. Cioè, si tratta di un scandalo. Siccome c'era soltanto la ERT che poteva dirigere la rete digitale, l'hanno cancellata, l'hanno fatto un bel delete dalle nostre vite e hanno venduto questa rete digitale ad Igea, che, come vi ho detto, le è costato solo 17 milioni euro per 15 anni. Allora, la Igea ha in mano tutto il mondo della televisione in Grecia. Se vuole tagliare Antonella, se vuole tagliare Atanasio, basta chiudere la porta, come hanno fatto per esempio alla televisione del Partito Comunista, che dal primo giorno ci ha dato un gran appoggio, un gran sostegno trasmettendo il nostro programma. Una notte hanno tagliato la rete alla televisione del Partito Comunista e buonanotte, nessuno poteva niente vedere. Certo, e poi questa Igea. Non dobbiamo dimenticare che tutti quelli che fanno parte del Consiglio Generale Centrale della Igea, la ditta che dirige il segnale digitale, sono gli imprenditori che hanno in mano i mass media privati in Grecia. Cioè, è ovvio perché volevano cancellare la radio televisione pubblica. Sì, e poi appunto mi hai anticipato un po' la domanda. Sì, questa DIGEA è questo consorzio di 6 network che sono televisivi, che sono di proprietà appunto dei grandi poteri economici in Grecia. E per chi è stato in Grecia ha potuto vedere la televisione in Grecia, i grandi network privati fanno un tipo di televisione che è assolutamente all'opposto di quello che state cercando di fare voi e che in parte, pur con molte contraddizioni probabilmente, faceva la televisione pubblica. Certo, nessuno poteva dirigere tutto questo grandissimo mondo che veniva, cioè il mondo digitale, nessuno, soltanto la ERTE. Ma la ERTE da un certo punto e poi, soprattutto alla fine del 2011, ha cominciato un'onda forte contro le politiche del governo. Allora volevano la nostra voce, la volevano eliminare, insomma, è ovvio. E si vede, io non sono uno che vuol fare la politica. Vedo per esempio come sono andati, come vi ho detto, sono andate le elezioni politiche per il Parlamento europeo. Non hanno ospitato neanche una volta Tsipras, non hanno ospitato neanche una volta il Partito Comunista. Hanno sempre ospitato Nuova Democrazia, PASOK e tutti quelli che appartengono a questo sistema. I partiti dell'opposizione non hanno avuto neanche un canale televisivo a promuovere le loro tesi, nessuno, ve lo dico con sincerità. Questo certamente è importante dirlo. E senti, adesso dimmi. Di questo si dice tra la gente che ha votato per Syriza, per esempio, per Tsipras, prendere 34% senza aver neanche un canale a promuovere le tesi, un granché, è molto importante. E questo, al di là di tutte le considerazioni, fa anche capire quanto magari ci si può interrogare sul ruolo di emittenti libere, indipendenti, comunque schierate, anche che magari sembra possano poco contro lo strapotere appunto dell'informazione vigente, che invece evidentemente possono fare qualche cosa, ecco, al di là del fatto che la comunicazione, l'informazione poi avviene su tanti canali, cioè magari rimboccarsi le maniche e andare in mezzo alla gente, ecco, senza affidarsi per forza al web o altri canali, che sicuramente comunque non vanno trascurati. Un'ultima domanda su questo: adesso com'è attualmente la televisione fra virgolette pubblica che ha sostituito ERT dopo i licenziamenti, i tagli drastici del personale? Leggevo che praticamente hanno riassunto 400 delle, mi pare, non mi ricordo adesso qual era il numero, comunque una parte molto bassa di quelli che lavoravano in ERT. Che cosa trasmette adesso, al di là di quello che ci hai detto, quindi questa disinformazione più che informazione, per esempio per quanto ha riguardato le elezioni? Lasciamo a parte tutto quello che sentiamo per questa nuova televisione, vi parlo come giornalista. Per quanto riguarda la sua costruzione, dal primo giorno finora si tratta di un gran scandalo. Hanno detto credo che si parlava di un canale nuovo, di un canale bianco, di un canale senza scandali, eccetera, eccetera, eccetera. Si tratta di un scandalo dal primo giorno fino a qua, per quanto riguarda i contratti che hanno fatto con gli ex colleghi nostri, ma anche per quanto riguarda tutti quelli che hanno preso dal primo giorno. Si tratta di un scandalo per quanto riguarda quel dirigere l'archivio della ERT. Ci fanno vedere ogni giorno un lavoro fatto dalle nostre mani, cioè non hanno creato niente di nuovo, ma soprattutto quello che è più importante per noi, si tratta di un grande scandalo per quanto riguarda la promozione della politica del governo, dal momento che non appartiene a nessun programma, nessun rappresentante dei partiti dell'opposizione. Si può facilmente capire che si parla di un chiarissimo, grande e vero portavoce del governo greco. Sì, allora adesso passiamo a un altro argomento che avevo accennato all'inizio della telefonata, cioè la situazione della Viomè, questa fabbrica che ricordami. Che è stata praticamente presa in autogestione dai lavoratori? si è fatto un piccolo interrotto la tua voce, ti chiedevo di ricordarci da quando è che la fabbrica è andata in autogestione ai lavoratori, che l'hanno presa loro in autogestione. Guarda, è più di un anno tutto questo lavoro che la fabbrica di Viomè è passata alle mani degli ex lavoratori dopo la catastrofe, il crollo economico della vecchia azienda di Filcheram del signor Semergidis, che però è ritornato, purtroppo l'ex imprenditore è ritornato rivendicando, direi, al tribunale sia la fabbrica anche la terra, cioè dove è costruita la fabbrica. Non dobbiamo dimenticare che dopo che la fabbrica è passata alle mani dei ragazzi che lavoravano lì, hanno pian piano a costruire liquidi, cioè mesi che ci aiutano a pulire le nostre case, cioè le cucine, il bagno, eccetera eccetera. Tutto si vende a prezzi, direi, troppo economici, e chi compra per esempio una bottiglia di liquido per pulire la sua cucina partecipa immediatamente all'assemblea generale, cioè basta comprare una bottiglia e fai parte di questa grandissima famiglia degli impiegati della Viomè, e puoi anche votare, quindi insomma allora, qualcosa che va proprio al di là. Sì, dimmi. L'ex imprenditore è ritornato, ha rivendicato la fabbrica, cioè l'edificio, diciamo così, ma tutti lo sappiamo molto che non si tratta di questo, cioè lui è ritornato non per rivendicare l'edificio, è ritornato per distruggere tutta questa lotta che si fa più di un anno da parte di un'autogestione vera, pura, nata a Salonico, che per noi è un gran simbolo, direi, è stata la prima volta che una fabbrica di Salonico passa nelle mani degli impiegati. Allora c'è stata una lotta fortissima contro questo tentativo dell'ex imprenditore di riprendere la fabbrica. Siamo arrivati tutti al tribunale, l'aspettavamo i giorni precedenti, però il tribunale ha deciso di rimandare tutta questa storia per l'8 di luglio, e saremo lì a proteggere tutto questo lavoro. Perché? Perché Viomè non è solo gli impiegati di Viomè, siamo anche noi, sono le signore che puliscono il Ministero dell'Economia, direi la maggior parte del popolo di Salonico, che abbiamo offerto molto in tutta questa storia. Io la chiamerei tutto questo dolcissimo viaggio di auto-organizzazione, di autogestione. Direi sì. Incontriamoci l'8 di luglio al Tribunale, nella speranza di chi ha pensato di ritornare troverà questa porta chiusa. Però ho paura. Perché la parte di questo grande mondo dei giudici, dei corti, dei tribunali, eccetera eccetera, secondo me lavora a favore del nostro governo. Direi di sì, però insomma comunque una mobilitazione da parte della città e non solo, insomma, è importante anche per il segnale che ha dato di recente la popolazione di Salonicco con referendum sull'acqua, no? Che era comunque stato dichiarato illegale. Se loro, per esempio, se loro ritornano a prendere la fabbrica, che succederà? Ufficialmente la ditta sarà crollata con timbro. Questo significa che io come ex imprenditore posso licenziare, che ancora non sono licenziati, posso licenziare gli impiegati e buonanotte. E certo, questo signore sì, avrebbe anche insomma ripercussioni di questo tipo, oltre a porre fine, poi vedremo come andrà, un'esperienza che già da quello che ci dicevi tu è abbastanza unica. Tutti lo sappiamo che c'è qualcosa di oscuro dietro questo tentativo, perché lui ci dice che a me interessa solo l'edificio. È impossibile che gli interessa solo l'edificio, cioè la fabbrica, gli interessa tutta questa storia. Una paura per quanto riguarda i giudici ce l'ho, ve lo dico la sincerità. Direi che è giustificata, ma metterete in campo insomma quello che avete messo in campo in quest'anno, e quindi in questo senso sicuramente tutta l'appoggio, la solidarietà e gli auguri da parte della nostra radio, e seguiremo. Beh, certo, insomma, mi sembra che già avete dato prova di grande determinazione. D'accordo, allora io ti ringrazio molto per questa corrispondenza, per la tua disponibilità, e ovviamente i nostri microfoni sono a disposizione, va bene? Io vorrei ringraziare ancora una volta per tutto questo appoggio. Se mi dai un minuto, devo soltanto dire ai colleghi giornalisti della RAI, sì, che devono stare attenti, perché anche il nostro governo un anno fa, e direi 16 mesi fa, hanno cominciato di tipo: faccio questo taglio, faccio l'altro taglio, non voglio più la RAI in Toscana, non voglio più la RAI in Sicilia, devo essere un po' più economico per la gente, e piano piano l'hanno chiusa. Devono stare attenti, il neoliberalismo comincia con piccoli passi, ma alla fine ti ammazza. Sì, e certamente questa tua notazione è molto importante. C'è stato, come forse saprai, uno sciopero nei giorni scorsi, ma non è stato uno sciopero dei giornalisti della RAI, che evidentemente pensano che la cosa non li riguardi. È stato uno sciopero, diciamo, delle maestranze, che però ha portato a una giornata senza dirette, con ripercussioni su tutti i programmi, quindi un segnale importante. Però appunto tu, come giornalista, giustamente ti rivolgi anche ai giornalisti. D'accordo. Vi ringrazio. Anche grazie soprattutto a te. Ciao. Dalla profondità del cuore, ciao. Ciao.